Rock FM. Squillino le trombe, sono le 8 e un minuto e per questo minuto di ritardo qualche testa salterà. Caro Spadino, sto guardando proprio te. Pane, burro e rock and roll. Seconda sveglia di quest'oggi, forza ragazzi. La tua colazione roll. Ancora un'ora di diretta con noi. Pane, burro e rock and roll. Vi svegliamo con gli Stones? Ma sì, dai. E te, come da contratto. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Reparto sveglia, è da lunedì che vi stiamo svegliando con... Their Satanic Majestic Request. Loro si chiamano Rolling Stone. Anche quest'oggi andrei dolcino. She's a Rainbow. Ah, che magia sto disco. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Seen her dressed in blue. See the sky in front of you. And her face is like a sail. Speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rain. Days of old, she shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in colors. Parto abitudinari, è da lunedì che vi svegliamo con questo Their Satanic Majestic Request e da lunedì riprenderemo con qualcos'altro. Brancoliamo ancora nel buio, speriamo che il weekend ci porti qualche buona idea o qualche buon nuovo disco, no? Così dal reparto privato. Arriva a colori, un po' come la televisione. è il She's a Rainbow, l'arcobaleno che tentiamo di portarvi tutte le notti. Mi sembrava mattutina questa immagine dell'arcobaleno, no? Direi di sì, cioè, insomma, in quello ci avevamo abbastanza azzeccato, anche nel chiedere ai Rolling Stone di aiutarci tutta la settimana, visto che tra l'altro la prima settimana ci eravamo fatti aiutare dai Beatles. 3351007777, continua l'interazione sfrenata con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Abbiamo un amico fiorentino che ha un problema. Buongiorno Ariele e supremo maestro. Il mio problema è che vi sto ascoltando in camera contemporaneamente, sia in stereo sia nell'impianto Dolby Surround, ma vi sento con l'eco come in una caverna. Non è che Spadino può fare qualcosa? Gruppo d'ascolto in quadrifonia sperimentale. Io sono in squadra con te, amico. La quadrifonia sperimentale mi piace un sacco. Io l'unico consiglio che ti do, come recita anche un nostro celebre spot, se hai due impianti dai quali ascoltarci, non ascoltare la stessa puntata che ti viene l'eco. Ascolta due puntate diverse, cioè una l'ascolti adesso in diretta e col tuo computer ascolti quella di ieri. E questa è la vera quadrifonia sperimentale, fratello. Vado a salutare anche una delle nostre radioascoltatrici preferite, soprattutto in questo periodo, la mitica Alice Postina, colei che ci ha portato così tante cartoline postali inviate in questa calda estate che ci permettono ancora di viaggiare insieme a voi. La nostra Alice finalmente oggi ha un ultimo giorno di lavoro e da lunedì meritate ferie, meritatissime Alice, con tutte le cartoline che ci hai portato, guarda. Spassatela anche un po' per noi e ovviamente inviaci una cartolina. Concludo con un SMS che ha dell'inquietante. Si firma Icci. Ha dell'inquietante perché parla di Gallarate, che è la mia patria. Insomma, io sono di Gallarate, io vivo a Gallarate. Ognuno ha le sue sfortune, io ho questa. Icci scrive: caro Ariele, a fine mese inizio un corso a Gallarate di speleologia. Dici che è rock? Beh, il corso di speleologia è rock sicuro. Lì non ci piove. Sul fatto che tu faccia un corso di speleologia a Gallarate mi puzza un po'. Dove vi fanno scavare? Se vi dico di scavare nel mio giardino, no. Perché non si può. Va bene, dai Rolling Stone sapete a cosa passiamo? Beh, a loro, ai Beatles. Andiamo, Spadino. Helter Skelter! Senti che carica. Vai Ringo, lanciala! Ringo, lanciala! Don't you want me to make you? Senta, Fred, che le dico la verità, il momento del compleanno mi piace sempre un sacco. È sui morti del giorno che solitamente... Ma la capisco Ariel, ah, la capisco perfettamente, però in questo caso... Secondo me non alza lo so. L'ascolto. Invece in abbacchia, questo caso... puzza di marcio. Certo, ma in questo caso si lasci convincere, si lasci condurre... Perché abbiamo del gossip sostanzioso. Il gossip aumenta l'audience. Era il 14 di settembre del 1982 e purtroppo, ahimè, moriva, se non ricordo male, in un incidente stradale, la grande attrice Grace Kelly. No, ha ragione, bisognava ricordarla. Questa è una notizia tosta. Attrice americana, nonché principessa di Monaco. Esatto, avendo sposato il principe Ranieri di Monaco, diventata lei stessa principessa, figlia di due bellissime principessine. Quante ne sa? Lei di gossip ne sa tantissimo. Sono abbonato all'International Gossip United. Mi farà dare una sbirciata. Una rivista di altissimo livello culturale. Ma forse non tutti sanno che il 14 di settembre invece vide la luce il mitico Pietro Germi, regista italiano. Il famosissimo regista italiano, autore di... me ne citi uno, almeno. Di quale film, lei mi chiede? Sì. Beh, le cito, sono preparato perché mi sono consultato con la redazione... Un maledetto imbroglio è stato uno dei suoi capolavori, tratto da Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda, un libro straordinario, uno dei capisaldi della letteratura italiana del Novecento. Sono veramente tanti i compleanni da festeggiare in questo 14 di settembre, quindi vado veloce. Facciamolo. 1937, Renzo Piano. Piano, architetto italiano, il 14 settembre del 1937 vide la luce. 1938. Franco Califano, cantautore italiano. Le è mai capitato di incontrare nel percorso artistico che l'ha caratterizzata Franco Califano? No, non mi è Peccato. Mai successo e credo che la cosa musicalmente, filosoficamente mi abbia nociuto. Direi proprio di sì. Ah, no. Ma non potremmo proseguire la giornata senza ricordare il compleanno del mitico Mariano Apicella. Nasceva il 14 settembre del 62. Lei ha mai incontrato Mario Apicella? No, mi manca anch'egli. E credo che anche per lui la sua carriera artistica avrebbe potuto avere una svolta, sa? Così come incontrando Alessandro Canino, ma cantante italiano, nato... Ma chi è Alessandro Canino, maestro? Ma aspetti, nato il 14 settembre del 1973, Alessandro Canino partecipò ad un'edizione del Festival di Sanremo. Cantando? Portando la canzone Brutta. Aia, che nel 1992, canzone peraltro invece molto bella, molto carina, che narra le vicende di questa ragazza che presume di essere brutta, ma il cantante Alessandro Canino la convince che così non è. Le sarebbe piaciuto scriverla lei? Ma è una canzone molto delicata, molto delicata, molto così romantica. A volte mi stupisce. Era il 1982, questa invece la dico io, quando il 14 di settembre nasceva la bella Sunrise Adams. Se la ricorda? Beh, vagamente, adesso essendo una le faccio vedere un paio di filmatini e le torna immediatamente in mente. Grande Sunrise, porno star statunitense. Grandissima Sunrise, come lo traduciamo? Sole che nasce? Sì. Alba Adams. Ah, la signorina Alba. Alba Adams. Piacere, signorina Alba. Accidenti, se il buongiorno si vede dall'alba. We'll be right back. Romantics, What I Like About You. È impossibile non far scattare il balletto su una canzone così. Loro vi raccontavano cosa gli piace no, io vi racconto cosa mi piace di voi là fuori, perché ogni giorno siete sempre di più, perché lo sappiamo che è difficile riuscire ad ascoltare Rock FM. Diciamo la verità, non è semplice. Non siamo una radio gigante con dei ripetitori, quelli nucleari, che sparano a zero su tutto il territorio. Abbiamo delle antennine rock, e quindi non è semplice. Eppure voi quotidianamente dimostrate affetto, mi scrivete, guardate. L'altro giorno mi telefonava uno dalle parti di dove vive Garavelli, là, verso Ro, stazione di Ro, canzone punk di anni fa che non c'entra niente. Telefonava, diceva: guarda Riele, che di solito per sentir bene le radio uno l'antenna la deve tirar su, mentre invece per sentire voi la devo sdraiare per terra. Uno fa i suoi tentativi e poi... Voi mi piacete perché passate le notti brave e poi ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll per farvi svegliare, come dice Valentina, dopo aver passato la nottata al rock and roll. Che fatica, che fatica. Per fortuna che ci siete voi. E poi mi piacete perché vi piacciono le stesse cose che piacciono a noi. Perché essendo tutti un po' dei rocker, ci piacciono un po' le stesse cose. Noto che siete rimasti colpiti dalla nostra radioascoltatrice che fa il corso di speleologia a Gallarate. Steda Sesto dice: certo che se a Gallarate, prima di fargliele perlustrare le grotte, gliele fanno pure scalare, chissà quando gli passa. Più che rock è underground il corso di speleologia, sentenzia qualcun altro. Va bene, viva la speleologia. Vedo pronti a partire i Led Zeppelin, e allora vi ricordo la notiziona che sta rimbalzando in questi giorni un po' su tutte le radio, anche quelle non prettamente rock: si terrà un concerto dei Led Zeppelin. La notizia, tra l'altro, la trovate anche in home page su radiorockfm.com. avverrà il 26 di novembre e il biglietto costerà 125 sterline. Non ci saranno solo gli Zeppelin ad esibirsi, ci sarà anche Pete Townshend degli Who, Paolo Nutini, Foreigner, Bill Wyman. Ragazzi, sul sito c'è scritto Bill Nyman, secondo me c'è un errore, adesso glielo facciamo correggere, via. E se andate, il concerto è un concerto per ricordare Ahmet Ertegun, un capoccia dell'Atlantic, se non rimane, sì, dell'Atlantic Record, che è scomparso nel 2006, e quindi tanti artisti che lui ha scoperto gli dedicano questo concerto, anche i Led Zeppelin. Visto che i biglietti da vendere saranno tanti, andate sul sito e potete pre-registrarvi, perché non è che comprate il biglietto e andate a vedere i Led Zeppelin, no, comprate il biglietto e poi dovete sperare di essere sorteggiati, perché andrà a sorteggio. Questa cosa mi piace tantissimo. Lo saprete entro il 1 ottobre, quindi avete poi un mesetto per organizzarvi, anzi due mesetti, perché è il 26 novembre. Bella questa idea del biglietto a sorteggio, mi piace veramente tantissimo. Abbiamo parlato di Led Zeppelin, qui non c'è bisogno del sorteggio, ve li programmo io e ve li potete ascoltare. Questa è Rock and Roll, rilassate i muscoli, perché tra poco c'è l'appuntamento con il test attitudinale. Anche quest'oggi scopriamo in diretta: sei o non sei un vero rocker? La patente da vero rocker te la meriti oppure no? E poiché il punk, amici ed amiche in ascolto, mi coinvolge sempre, mi emoziona, mi trascina, è stata la mia musa ispiratrice, la mia musica ispiratrice, DJ Ariele, buongiorno. Ecco, io vorrei quest'oggi, affrontando il centro della trasmissione, il Sancta Sanctorum, il test attitudinale, esatto, il quiz, arrivando al quiz che regala punti, per bollini la rocker, per la patente vero rocker, quest'oggi l'argomento passa il genere musicale punk rock. Mi permetta allora di specificare con la domanda: si parla del celebre videoclip di My Way, nella versione, parlando di punk ovviamente, di Sid Vicious, dove l'ex bassista dei Sex Pistols scende le scale e compie un gesto decisamente anticonformista e mai visto fino ad allora. Ricordate cosa faceva Sid Vicious nel video di My Way? Naturalmente specifichiamo, My Wave non è una canzone punk, ma il video lo era tanto. My way. Portata al successo questa canzone da Frank Sinatra, ma nel video decisamente punk, Sid Vicious che faceva? Che faceva? Soluzione A: sparava al pubblico. Bang! Soluzione B: giocava a freccette con delle siringhe. Terribile. Era la siringa questa. Era il rumore della siringa che arrivava. C. Sembrano freccette autentiche. C. Infilava delle spille da baglia, antica usanza punk, in un manichino che riproduceva fedelmente la regina d'Inghilterra. Decidetelo ora, decidetelo subito. Cosa faceva Sid Vicious nel video di My Way? Ipotesi A, B o C? La soluzione? Come al solito dopo ve la diciamo tra poco.